5B. Ascolta e trasforma. Il professore è bravo. I professori sono bravi. Il dolce è buono. I dolci sono buoni. Il presidente è giovane. I presidenti sono giovani. Il televisore è nuovo. I televisori sono nuovi. Questo ristorante è chiuso. Questi ristoranti sono chiusi. Questo dottore è intelligente. Questi dottori sono intelligenti. Questo giornale è francese. Questi giornali sono francesi. Questo signore è straniero. Questi signori sono stranieri.